Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Sì, però forse abbiamo parlato troppo forte, perché qui all'asilo adesso ci sono i preparativi della recita del 150esimo anniversario. Sono i bambini che studiano le parti, che imparano a memoria, insomma non disturbiamo. Non disturbiamo. Però guarda che non tutti i bambini in realtà sono coinvolti nella recita, perché ce n'è uno che è stato messo, ahimè, in isolamento perché disturbava gli altri mentre appunto cercavano di preparare la recita, no? Ma chi è? Chi è? Il bambino Alberto? Ma no, il bambino Alberto, come sai bene, fa la piccola vedetta lombarda sull'albero, si esercita lì. Ma anche oggi? Può darsi, non voglio saperlo, perché oggi il problema non è il bambino Alberto, ma è il bambino Sgarbi, è lui che è tenuto in cattività. Vabbè, poverino. Quando non se ne può fare a meno. Ma no, ma ti sbaglio, cioè... vedi Kappa, sono proprio questi bambini come il bambino Sgarbi, bambini plus dotati che possono dare quel non so che in più alla recita scolastica. Sì, invece, ho capito, ma lui è sempre in loop, no? Si fissa su certe cose. Taci. Cioè è in loop, come fai a usarlo nella recita? Arriva lui, che non so, devi fare un personaggio, entra. Taci. Esatto, mi stupisco, fai una cosa alla Philip Glass seriale, no? Cosa dici Philip Glass, cioè quelle musiche tipo... Esatto, la musica seriale, quella che appunto si ripete. Tito, con dai, è musica seriale. Forse gli danno fastidio le frequenze del Glock. No, può anche darsi che sia proprio comunque un riferimento. Drago, siamo a Radio 24. E quindi? Non scherzare, qui va bene che divaghi, ma insomma, Philip Glass è Philip Glass. Ho capito, cioè, infatti, non puoi, I famosi loop del bambino Sgarbi ormai sono un classico. Lei parla per slogan. Posso parlare? Lei parla per slogan. E ora, bambini, il sonnellino. Kappa. Kappa, non vorrei mica dormire. Perché no? Una volta che sono, lasciami dormire. Madonna, Drago. Kappa, come fai a dormire con tutto il casino che c'è nel Mediterraneo? Dico io. Ma mica arriva qua il rumore del Mediterraneo. Siamo nella nostra stanzetta. Il casino è in Tunisia, in Egitto, in Iran, in Yemen. Qua non c'è. Ma non capisci, Kappa, che lì si sta facendo la storia. La storia con la S maiuscola. Sì, vabbè, tutte le storie adesso sono con la S maiuscola. Ti vedi una volta a cena, poi ognuno a casa sua. Però subito cominciano gli SMS. Però la nostra è una storia. Non è una storia qualunque. Sembra una storia con la S maiuscola. Sì, ma lì. Io sto parlando di Mubarak, di Ahmadinejad. Vabbè, loro si scambiano i messaggi. Sì, sto cadendo anch'io, aiuto, vienimi a salvare. No, cosa si scambiano? Si scambiano, la nostra è una storia con S maiuscola. Sì, Mubarak. Vabbè, comunque la nipote per esempio di Ahmadinejad me la son persa. Ah sì, quella di Mubarak invece vabbè, lei era... è giovane quella, non va bene, non puoi fare S maiuscola. Quella di Ahmadinejad, sì, te la sei persa. Chissà chi era, forse quella con la bocca rifatta. Ma ce l'hanno tutti la bocca rifatta. Vabbè, ma non sei eccitato come nell'89 con queste rivoluzioni? Magari, come nell'89. Avevo 20 anni, dai. 20 anni, ti rendi conto? Avevo 20 anni. Ebbene? No, così... Certe prestazioni, Drago, come a 20 anni, chi se le sogna ma più? Kappa, ma io, ma sei eccitato dal punto di vista così ideologico, le rivoluzioni, quello che ti chiedevo, il popolo che scaccia il tiranno, cioè ti rendi conto? Tutta una nazione che si sveglia e decide di dire in faccia al dittatore quello che pensa, ma non è meraviglioso? No, scusa, però ero rimasto che andavamo alle elezioni anticipate, ma con la vecchia legge... No, mi sono perso qualcosa? Se si va alle elezioni con la vecchia legge elettorale e allora il bambino Bersani, una volta che deve fare le squadre, come quando si gioca a pallone, deve scegliere. E chi sceglierà tra il canuto bambino Pierferdi e il truccatissimo bambino Nichi? Cioè Pierferdi o Nichi? Che nomi, tra l'altro. Ratzinger non ha ancora detto niente sui nomi di questi due bambini. No, Tito, scusa. Vabbè, no, però ci pensa Tito, no? Bravo Tito, dai addosso a Pierferdi e Nichi, che hanno due nomi che non si possono sentire. Vabbè, comunque, Bersani, il bambino Bersani non dorme, sono intranquilli. Questo è sicuro. Ha perso sonno da quando il suo collega Tonino ha cominciato a girare come un pazzo in tournée. Ma chi? Il bambino Tonino? Di Pietro? Certo, e lui c'ha successo. Adesso c'ha la sua taranta sciamanica. Beh, sì. È un successo, popolarissimo, eh? E lui la mette in scena perché vuol ricordare costantemente al bambino Pierlu che ora sta a lui scegliere. Il bambino? Pierlu. Ah sì, Pierluigi Bersani e il Pierlu. Il no? Pierlu. Allora, Pierlu, scegli Pierferdi o Nichi. Vai con quello o vai con quello? O con quello o con quello? O con questo, deciditi, con questo, no? Se no, fai la fine dell'asino di Buridano. Il gioco dell'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Alla fine rimane lui per muore di fame. Era inevitabile che il concept di Chiedo Asilo attirasse l'attenzione dell'industria editoriale, culturale. Infatti sta succedendo sotto i nostri occhi, come al solito, ci rubano le idee. Ma quale industria culturale? Soprattutto quale concept? Ma sì, dai, a furia di dire a tutti, tutti i giorni, per 10 minuti, che nel mondo non ci sono più adulti, gli editori hanno capito e hanno subito messo sul mercato centinaia di libri, film, fumetti, giochi, che un tempo sarebbero stati per ragazzi, ma che adesso vengono venduti anche agli adulti. Sui giornali chiamano questo fenomeno crossover, in realtà si chiama infantilismo o regressione. Ma no, si dice crossover. Drago, Red Hot Chili Peppers, Living Color. Ma K, dai, non si può dire Philip Glass a Radio 24, ma nemmeno Living Color. Ma perché? Red Hot Chili Peppers sì, invece. Beh, i Red Hot sono famosi anche qui, Vabbè. Non tanto, evidentemente. Vabbè. Tito, però tu di musica proprio niente. Ha ragione Tito, non perdiamo la bussola, si parlava di crossover generazionale. Tu prendi i libri di Stephen King, o quelli uguali identici di Niccolò Ammaniti. Io non ho paura. Tu hai paura? No. Io nemmeno. Comunque, Io non ho paura di Ammaniti? È un libro per adulti o per ragazzi? Per tutti e due. No? Ma è impossibile! Ma perché? È trasversale! Ma perché no? Se un libro che piace ai quindicenni non può avere lo spessore sufficiente per piacere anche a un adulto. Ma perché? E se invece piace a un adulto, allora il quindicenne dovrebbe trovarlo troppo complesso o noioso, no? Ma chi è che ti riempie la testa di queste idiozie? Thomas Mann. Ma cioè, tu hai Thomas Mann in casa con la, sì, le pantofole e la vestaglia che gira e ti spiega come vanno le cose. Ti dice: Marco, attenzione. Non so, però che ne so, roba che spiega te. Basse, siamo nel 2011, Drago. Su, c'è il crossover. Sì, ormai. Dai, il crossover. Vedi dei quarantenni che impazziscono per Harry Potter, per i vampiri. Ma dico io, ma a 15 anni cosa leggevano? Ma forse leggevano Kant, no? E poi si sono stufati. La nostra Italia è in mano a dei cialtroni. Votiamo K e Drago e vinciamo le elezioni. Chiedo asilo. Vabbè, questa strofa Captazio Benevolenzi viene dalla redazione di Chiedo Asilo, quindi quasi non conta. Ce l'ha fatta la bambina Claudia. Il nome è giusto? Sì? Mi dice di sì? E quindi anche voi a casa mettete mano alla penna, mettete mano al vostro PC e componete le strofe che faranno della sigla di finale di Chiedo Asilo, una sigla che durerà tipo 12 ore e verrà trasmessa dal vivo. Cioè, devi fare Talking Blues, qui devi tenere la gente attenta, sei noiosissimo. Ma come? Ma chiudiamo, sto dicendo va. Che sarà... Vabbè. Chiedo asilo. È duro però, eh. Che male, io basta, non ne posso più, devo scendere questo albero, eh. Sono 5 giorni che sono qui e poi non mi porta neanche da mangiare. No, aspetta che facciamo il punto. Allora, facciamo il punto. Io sono seduto sul ramo, no? Su questo ramo qua. E lo sto segando, no? E sega. E... ma quando ho finito di segare? E io dov'è che vado a finire? Ma no!